che richiuse il cancello dopo. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Quinta puntata. Il giorno fissato tornai a casa Havisham e la mia esitante scampanellata fece uscire Estella, che richiuse il cancello dopo avermi fatto entrare. Di nuovo mi precedette nel buio corridoio dove stava la candela. Non mostrò di accorgersi di me finché non ebbe presa la candela in mano. E allora, guardandomi al di sopra della spalla, disse in tono arrogante: «Oggi devi passare di qui». E mi portò in una parte completamente diversa della casa. Il corridoio era lungo e sembrava che facesse il giro di tutto il pian terreno quadrato dell'edificio, ma ne percorremmo soltanto un lato. E giunte alla sua estremità, ella si fermò, depose la candela e aprì una porta. Al di là riapparve la luce del sole e mi ritrovai in un cortiletto selciato, il cui lato opposto era formato da una casetta staccata, forse occupata un tempo dal gerente o dal direttore della defunta fabbrica di birra. C'era un orologio sul muro esterno di quella casetta, e al piede della stanza della signorina Havisham e del suo orologino era fermo sulle 9:20. Entrammo da una porta aperta in una stanza buia, dal soffitto basso, a pian terreno, sul retro della casetta. Alcune persone stavano qui riunite, ed Estella, nell'unirsi a loro, mi disse: «Vai lì e rimani in piedi finché non sarai chiamato». Poiché lì significava la finestra, attraversai la stanza e rimasi lì, in piedi, a guardare fuori, sentendomi molto a disagio. Indovinai che la mia venuta aveva interrotto la conversazione nella stanza e che gli altri suoi occupanti mi stavano guardando. Non potevo vedere nulla della stanza, se non il riflesso vivido del fuoco nel vetro della finestra, ma mi irrigidii tutto, sapendo di essere oggetto di un severo scrutinio. Tre signore e un signore si trovavano nella stanza. Non ero da 5 minuti accanto alla finestra e già in qualche modo mi ero fatto l'idea che fossero tutti dei parassiti e degli impostori, ma che ognuno di essi fingesse di non sapere che gli altri lo erano, perché ammettere di saperlo avrebbe svelato che anch'essi erano dei parassiti e degli impostori. Avevano tutti l'aria svogliata e triste di chi dipende dalla volontà altrui, e la più ciarliera delle signore doveva parlare molto in fretta per soffocare uno sbadiglio. Questa signora, che si chiamava Camilla, mi ricordava moltissimo mia sorella, eccetto che era più vecchia, e come scoprii quando la vidi in faccia, aveva dei lineamenti meno appuntiti. Anzi, quando la conobbi meglio, finii per pensare che bisognava ringraziare il cielo che ella addirittura non avesse tratti. Tanto era vuota e alta la facciata, senza espressione, del suo viso. Il suono di un campanello lontano, e insieme l'eco di un grido, di un richiamo nel corridoio dal quale ero giunto, interruppero la conversazione, ed Estella mi chiamò: «Su, ragazzo!» Quando mi voltai, tutti mi guardarono con un disprezzo estremo, e mentre uscivo sentii Sarah Pocket dire: «È veramente il colmo!» E Camilla aggiungere indignata: «Si è mai visto una simile fantasia? Che idea!» Mentre percorrevamo con la nostra candela il corridoio buio, Estella si fermò di colpo, fece un voltafaccia e disse in quel suo modo insolente, con il viso che quasi sfiorava il mio: «Ebbene?» «Ebbene», risposi frenandomi perché stavo per caderle addosso. Continuò a fissarmi, e naturalmente la fissai io pure. «Sono carina?» «Sì, trovo che siete molto carina». «Sono insolente?» «Non quanto l'ultima volta». «Non così tanto?» «No». Fiammeggiava d'ira nel fare l'ultima domanda. E non appena ebbe risposto, mi schiaffeggiò con tutte le sue forze. E adesso, piccolo mostriciattolo volgare, disse: «Che pensi di me adesso?» «Non ve lo dirò». «Perché lo dirai sopra, non è così?» «No», disse, «non è così». «Perché non piangi di nuovo, piccolo disgraziato?» «Perché non piangerò mai più per voi», affermai. Un'affermazione, temo, la più falsa che sia mai stata fatta. Perché intimamente stavo piangendo per causa sua. E io solo so quanto Estella mi fece soffrire in seguito. Dopo questo episodio andammo avanti e mentre salivamo la scala incontrammo un signore che scendeva a tentoni. «Chi mai è questi?» chiese il signore fermandosi per guardarmi. «Un ragazzo», disse Estella. Era un tipo corpulento, dalla carnagione scurissima, con una testa eccezionalmente grossa e delle mani sulle stesse misure. Mi prese il mento nella sua grossa mano e voltò all'insù il mio viso per scrutarlo alla luce della candela. Era prematuramente calvo sulla sommità del cranio e aveva folte sopracciglia scure che non volevano saperle di star coricate, ma si rizzavano come setole, degli occhi profondamente infossati, dallo sguardo sgradevolmente duro e sospettoso, una grossa catena da orologio, e forti ombre nere segnavano il punto dove sarebbero cresciuti barba e favoriti se li avesse lasciati crescere. Non rappresentava nulla per me e non potevo certo prevedere allora che egli avrebbe un giorno rappresentato qualcosa. Pure il destino mi offerse subito l'occasione di osservarlo bene. «Un ragazzo del vicinato, eh?» disse. «Sì, signore», dissi io. «Come mai tu vieni qui?» «La signorina Havisham mi ha mandato a chiamare, signore», spiegai. «Beh, comportati bene. Ho una certa esperienza dei ragazzi e siete tutti quanti dei mascalzoncelli. Ora... bada», disse mordendo un lato del suo grosso indice mentre mi guardava accigliato, «comportati bene». Con queste parole mi lasciò andare con grande mio sollievo, perché la sua mano odorava di sapone profumato, e continuò a scendere. Mi chiesi se era un dottore. No, decisi, non poteva essere un dottore, che altrimenti avrebbe avuto dei modi più gentili e persuasivi. Del resto non ci fu molto tempo per ponderare il problema, perché ci trovammo subito nella camera della signorina Havisham, dove lei ed ogni altra cosa erano esattamente come le avevo lasciate. Estella mi lasciò lì, ritto, accanto alla porta, e vi rimasi finché dalla toeletta la signorina non gettò gli occhi su di me. «Dunque?» disse senza apparire allarmata o sorpresa. «I giorni sono passati, no?» «Sì, signora, oggi è... via, via, via!» Con un gesto impaziente delle dita, «non voglio saperlo. Sei pronto a giocare?» Fui costretto a rispondere un poco confuso. «Non credo, signora.» «Neppure a carte, e di nuovo?» Ella si informò con uno sguardo indagatore. «Sì, signora, se è necessario, quello lo potrei fare.» «Poiché questa casa ti rende di colpo vecchio e immusonito», disse impaziente la signorina, «e non hai voglia di giocare, avresti per caso voglia di lavorare?» Ero in grado di rispondere a questa domanda più volentieri di quanto non potessi rispondere all'altra, ed affermai di essere pronto a lavorare. «Allora va nella stanza di fronte», disse mostrando con la mano avvizzita la porta dietro a me, «e aspetta che io venga». Attraversai il pianerottolo ed entrai nella stanza indicata. Anche qui la luce del giorno era totalmente esclusa, mentre regnava un tanfo opprimente di chiuso. La signorina Havisham mi pose una mano sulla spalla. Nell'altra teneva un bastone terminante a gruccia su cui si appoggiava e sembrava la strega del luogo. «Qui», disse additando con il bastone la lunga tavola, «qui mi metteranno quando sarò morta. Qui verranno a guardarmi». Nel vago dubbio che ella si potesse mettere immediatamente sulla tavola e morire di colpo, creando in tal modo una perfetta imitazione della statua di cera che avevo visto alla fiera, cercai di sfuggire al suo contatto. «Cosa credi che sia?» mi domandò indicando di nuovo con il bastone. «Quella roba dove ci sono le ragnatele?» «Non saprei davvero, signora.» «È una grossa torta!» «Una torta nuziale! La mia!» Si guardò tutto intorno con aria di sfida e appoggiandosi su di me, mentre la sua mano si contraeva sulla mia spalla, disse: «Su, su, su, su, fammi passeggiare! Fammi passeggiare!» Ne dedussi che il mio lavoro sarebbe consistito nel far passeggiare la signorina Havisham attorno alla stanza, e per conseguenza incominciai subito a farlo. Ella si appoggiò alla mia spalla e ci avviammo ad un'andatura che poteva sembrare un'imitazione del calesse del signor Pumblechook. Ma la signorina non aveva un fisico molto forte e poco dopo disse: «Più adagio!» Pure continuammo ad un passo rapido ma impaziente ed irregolare. E mentre andavamo, ella contraeva la mano sulla mia spalla e muoveva la bocca tanto da farmi pensare che andassimo in fretta, perché in fretta andavano i suoi pensieri. Dopo un altro poco mi disse: «Chiama Estella!» Ed io uscii sul pianerottolo e urlai quel nome, come avevo fatto la prima volta. Quando scorso sul volume, tornai dalla signorina Havisham e riprendemmo a girare attorno alla stanza. Se la sola Estella fosse venuta ad assistere a quello che facevamo, sarei stato già abbastanza malcontento. Ma ella si portò dietro le tre signore e il signore che avevo visti da basso. Ed io non seppi che fare. Secondo le regole della buona educazione avrei dovuto fermarmi, ma la signorina mi strizzava convulsamente la spalla e continuammo a girare. Per quanto fossi conscio e ne provassi vergogna, che essi ne avrebbero attribuito a me tutta la colpa. La signorina Havisham ed io non ci eravamo fermati un istante, ma avevamo continuato a girare attorno alla stanza, ora sfiorando le sottane delle visitatrici, ora lasciando fra loro e noi tutta quanta l'estensione di quella lugubre stanza. «Bel tipo, Matthew!» disse Camilla. «Non si preoccupa mai dei vincoli familiari. Non viene mai a vedere come sta la signorina Havisham!» Quando il nome di quel Matthew era stato fatto, la signorina Havisham si era fermata. Aveva fermato anche me, ed era rimasta a guardare chi parlava. Il mutamento mise immediatamente termine alle attività chimiche di Camilla. «Matthew verrà a vedermi alla fine», asserì la signorina Havisham, «quando sarò su quel tavolo. Quello sarà il suo posto, lì», picchiando sul tavolo con il bastone, «dalla parte della testa. E quello sarà il vostro posto, e quello laggiù di vostro marito, e lì quello di Sarah Pocket, e lì quello di Georgiana. Ora sapete tutti dove dovrete mettervi quando verrete a godervi lo spettacolo. Ed ora andatevene!» Ad ogni nome che pronunciava picchiava sul tavolo con il bastone in un punto diverso. «Fammi passeggiare!» E riprendemo la nostra corsa. «Suppongo che non ci resti altro», esclamò Camilla, «che obbedire e andarcene. È già molto aver visto l'oggetto del nostro amore e dovere, sia pure per un tempo così breve. Sarà per me una malinconica consolazione quando mi sveglierò stanotte. Vorrei che Matthew potesse avere lo stesso conforto. Ma egli non se ne cura. Non intendo mettere in mostra i miei sentimenti, ma è molto duro sentirsi accusare di voler banchettare sui propri parenti morti, come se si fosse dei mostri, e vedersi mettere alla porta. Ma che idea!» Mentre Estella era occupata a rischiarare la loro discesa, la signorina Havisham continuò a camminare con la mano sulla mia spalla, ma sempre più lentamente. Alla fine si fermò dinanzi al focolare, e dopo aver brontolato sottovoce per alcuni secondi, disse: «Oggi è il mio compleanno, Pip». Stavo per farle gli auguri, quando ella alzò il bastone. «Non tollero che se ne parli. Non tollero che quella gente che era qui poco fa, o chiunque altro, ne parli. Vengono qui per questa ricorrenza, ma non osano accennarti. Naturalmente io Non feci altri sforzi per ricordarla. E in questo giorno dell'anno, molto prima che tu nascessi, questo mucchio di marciume, sciabolando con il bastone a gruccia l'ammasso di ragnatele sulla tavola, ma senza toccarlo, fu portato qui. Ci siamo consumati insieme, quello ed io. I topi l'hanno rosicchiato e denti più acuti di denti di topi hanno roso me. Teneva il pomo del bastone stretto contro il petto, gli occhi fissi sulla tavola. Lei nel suo vestito un tempo bianco, ora giallo e consunto. La tovaglia un tempo bianca, ora gialla e sgualcita. Ogni cosa intorno a lei pronta ad andare in pezzi, al minimo tocco. Quando la rovina sarà completa, e la disse con uno sguardo spettrale, e quando mi deporranno morta nella mia veste nuziale, sulla tavola della sposa, ciò che dovrà essere fatto e rappresenterà l'ultima maledizione per lui, tanto meglio se avverrà proprio in questo giorno. Sostò a guardare la tavola, come se vi vedesse stesa la propria immagine. Rimase immobile. Estella tornò e rimase anch'essa immobile. Mi parve che restassimo così a lungo. Nell'atmosfera soffocante della stanza e nella fitta oscurità che indugiava negli angoli più lontani, mi venne la spaventosa idea che anche Estella ed io incominciassimo a decomporci. Alla fine, uscendo da quell'atteggiamento assorto, non già gradatamente, ma di botto, la signorina Havisham disse: «Giocate a carte voi due! Chi vi veda! Come mai non lo avete ancora fatto?» Così tornammo nella sua stanza e ci sedemmo come la prima volta. Io, come allora, persi tutte le carte. E sempre come allora la signorina Havisham ci tenne d'occhio tutto il tempo. Attirò la mia attenzione sulla bellezza di Estella e mi costrinse a notarla maggiormente provando i suoi gioielli sul petto e sui capelli di Estella. Questa, dal canto suo, mi trattò come già l'altra volta, ma senza degnarsi di parlare. Dopo aver giocato una mezza dozzina di partite, fissammo un giorno per il mio ritorno. Poi fui condotto giù in cortile e nutrito al pari di un cane, come l'altra volta. E di nuovo fui lasciato libero di andare vagando a mio piacere. Non importa sapere se un cancello nel muro del giardino che avevo scalato l'altra volta per guardare furtivamente al di là fosse quella volta aperto o chiuso. Basti dire che io allora non avevo visto nessun cancello. Ed ora ne vidi uno. E poiché era aperto, e sapevo che Estella aveva fatto uscire i visitatori, era tornata con le chiavi in mano, penetrai nel giardino e lo girai dappertutto. Era un luogo veramente selvaggio, pieno di bucce di meloni e cetrioli, che decomponendosi sembravano aver dato vita a una vegetazione spontanea, vagamente affine a brani di vecchi cappelli e scarpe, con qua e là dei ciuffi d'erbe simili a pentole sconquassate. Quando ebbi finito di perlustrare il giardino, e una serra che non conteneva nulla all'infuori di una vite divelta e di alcune bottiglie, mi trovai in quel lugubre angolo che avevo visto dalla finestra. Senza dubitare un solo istante che la casa ora fosse vuota, guardai dentro da un'altra finestra e con grande sorpresa mi trovai faccia a faccia con un giovanetto pallido, dalle palpebre arrossate e dai capelli biondo chiari. Questo pallido giovane sparì subito e riapparve vicino a me. Quando me lo ero visto dinanzi, stava studiando su dei libri, ed ora mi accorsi che era macchiato d'inchiostro. «Ciao!» disse. Poi «Ciao!» e un saggetto con cui avevo notato che di solito si rispondeva nello stesso modo, dissi anch'io. «Ciao! Chi ti ha fatto entrare?» disse. «La signorina Estella». «E chi ti ha dato il permesso di gironzolare qui?» «E la signorina Estella». «Vieni a fare a pugni!» disse quel giovane pallido. E che altro potevo fare se non seguirlo? Da allora mi sono spesso posto il quesito, ma che altro avrei potuto fare? I suoi modi erano così decisi ed io ero così stupito che lo seguii dove mi conduceva, come sotto l'influsso di un incantesimo. «Fermati un momento, però», disse girandosi prima che avessimo fatto molti passi. «Dovrei anche darti una ragione di fare a pugni. Eccotela!» Nel modo più irritante batté di colpo le mani l'una contro l'altra, lanciò agilmente all'indietro una gamba, mi tirò i capelli, batté di nuovo le mani, abbassò il capo e con esso mi colpì in pieno stomaco. Quest'ultimo gesto, non privo di un che di bestiale, oltre a rappresentare innegabilmente un'eccessiva libertà, fu particolarmente spiacevole, perché avevo appena finito di mangiare il mio pasto di pane e carne. Perciò restituì il colpo e stavo per colpirlo ancora quando egli disse «Ah, è così!» e incominciò a saltellare avanti e indietro come non avevo mai visto fare nella mia limitata esperienza. «Regole di combattimento!» disse. Dalla gamba sinistra passò a saltellare sulla destra. «Regole normative!» e dalla destra passò a saltellare sulla sinistra. «Vieni sul terreno per i preliminari!» e si spostò rapidamente avanti e indietro, facendo ogni sorta di movimenti, mentre io lo guardavo smarrito. Il cuore mi mancò quando vidi che mi squadrava ostentando una precisione da perito e, studiando la mia anatomia, quasi stesse scegliendo il suo osso. Provai la maggiore sorpresa della mia vita quando, sferrato il primo colpo, lo vidi steso a terra a guardare all'insù con il naso sanguinante ed un volto rincagnato. Ma un momento dopo eccolo di nuovo in piedi. E dopo essersi data una spugnata con grande sfoggio di destrezza, ricominciare a squadrarmi. La seconda più formidabile sorpresa della mia vita l'ebbi nel vederlo di nuovo spalle a terra, che mi guardava con un occhio pesto. Il suo coraggio mi ispirò un vero rispetto. Sembrava che non avesse forza affatto, e mai una volta gli riuscì di colpirmi duramente, e sempre era lui a finire a terra. Ma subito dopo rieccolo in piedi, pronto a darsi una spugnata, o a bere dalla bottiglia d'acqua, soddisfattissimo di riprendersi secondo le regole, e poi avvicinarsi a me con un'aria così trionfante da farmi credere che ora, infine, mi avrebbe spaccato. E pieno di lividi, perché con rammarico devo confessare che man mano aumentava col numero anche la forza dei miei colpi, ma più e più volte continuò a rialzarsi, finché all'ultimo fece una brutta caduta e batté con la nuca contro il muro. Persino in quel momento di crisi nei nostri rapporti, egli si rialzò e si rigirò a più riprese, brancolando senza vedere dov'ero io, ma finalmente si inginocchiò per prendere la spugna e gettarla in aria, ansimando nello stesso tempo. «È il segno che hai vinto tu!» Appariva così coraggioso e innocente che, sebbene non fossi stato io a proporre la tensione, non provai che una triste soddisfazione per la mia vittoria. Direi quasi che mentre mi vestivo mi consideravo una specie di lupacchiotto selvaggio o altro animale del genere. Tuttavia mi rivestii, fregando ogni tanto cupamente la mia faccia di sanguinario, e chiesi «Posso aiutarti?» Ed egli disse «No, grazie». Ed io dissi «Buon pomeriggio!» E lui disse «Altrettanto!» Quando rientrai nel cortile, trovai Estella ad aspettarmi con le chiavi, ma né mi domandò dove ero stato né perché l'avevo fatta aspettare. E un vivo rossore sul suo volto sembrava indicare che qualcosa era accaduto a renderla felice. Invece di dirigersi subito verso il cancello, indietreggiò nel corridoio e mi fece segno. «Vieni qui, puoi baciarmi, se vuoi». Le baciai la guancia quando me la porse. Credo che avrei pagato qualsiasi prezzo pur di baciare la sua guancia, ma sapevo bene che il bacio era concesso al ragazzetto ordinario e volgare, come si potrebbe dare una mancia, e che non aveva nessun valore. Tra i visitatori per il compleanno, i giochi di carte e la lotta, la mia visita si era prolungata tanto che quando mi avvicinai a casa, nella palude, il segnale sulla lingua di sabbia al largo spiccava sullo sfondo di un cielo notturno e la fucina di Joe gettava una striscia di fuoco sulla strada. Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Grandi speranze di Charles Dickens. Quinta puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.